Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre sulle frequenze di Radio Alma 101.9 ogni giovedì sera. Questa sera con i nostri ospiti commenteremo l'insediamento di Barack Obama, nuovo presidente degli Stati Uniti, come stavo dicendo in apertura. Commenteremo con due ospiti che sono due amici di Giro di Boa, sono entrambi già stati nostri ospiti una volta, Brandon Michener, ex giornalista per il Wall Street Journal e l'International Herald Tribune, ora consulente sugli affari europei qui a Bruxelles. Ciao Brandon. Ciao, buonasera. Benvenuto nuovamente in studio. Grazie. E Gaia Pellegrini Bettoli, americana, con il papà italiano, anche lei consulente qui a Bruxelles. Ciao Gaia. Ciao, grazie di essere di nuovo qui. Benvenuta nuovamente in studio a Giro di Boa. Quindi, cari radioascoltatori, abbiamo due americani, come potete sentire parlano benissimo italiano. Io direi di... Sono curiosa di chiedere innanzitutto ad entrambi che cosa avete provato martedì scorso quando avete sentito, assistito, visto, se l'avete visto in TV o sentito in radio il giuramento di Barack Obama. Prima di tutto una gran felicità e serenità, perché vedendo Obama in televisione con lui anche una certa serenità, che ero molto felice dopo questi 8 anni di George Bush, che non ero che non era mia scelta per presidente, bisogna dire, che vedere Obama in questo momento e sentire il suo discorso, che era pieno di buone idee di cui possiamo parlare dopo, era la felicità. E dove eri quando Barack Obama ha giurato? Stranamente io ero anche in televisione, ero in onda dalla radio, no, dalla RTL, studio RTL di Bruxelles, perché mi avevano chiesto, come loro americano a Bruxelles, diciamo, di commentare live sull'inaugurazione. Beh, sei anche il nostro americano a Bruxelles. Gaia, che emozioni hai provato? Ma straordinario, direi un seguito ai risultati elettorali e quella lunga notte dove finalmente abbiamo capito che sarebbe stato lui il nostro nuovo presidente. Devo dire che il mio senso civico è stato finalmente mosso, perché ho 36 anni ma è solo adesso la prima volta che voto per un presidente. E veramente, perché ti motiva, ha quella cosa in più, tutto il suo programma, è estremamente motivante. L'inaugurazione ho trovato un discorso molto interessante, pieno di idee, di fatti, che poi oltretutto potremo commentare dopo. Vediamo già alcuni dei punti di cui parla nel suo discorso inaugurale, li ha già messi in azione al suo primo giorno di lavoro, quindi molto interessante, una persona che fa seguire con le azioni, non, almeno a 2 giorni di distanza forse è troppo presto dirlo, però sembra che un programma sia chiaramente un'altra cosa che vorrei dire è che questa è anche la prima volta nella mia vita che ho visto l'inaugurazione di un presidente. Normalmente gli americani non guardano queste cose, non vanno a Washington, non si interessano neanche per Oath of Office, non so come dire in italiano. Giuramento. Ha prestato giuramento. Prestare giuramento non è una cosa ultra interessante normalmente, ma questa è la prima volta che milioni di persone hanno voluto vedere questo momento e sentirlo in prima persona. 2 milioni di persone presenti a Washington, se non sbaglio. Mi pare di avere sentito che 3 americani su 4 hanno appunto seguito in diretta l'insediamento del presidente. Beh, come già si diceva in apertura, sono tantissimi temi di cui parlare, e quindi Barack Obama ha prestato giuramento martedì scorso e ha già dato alcune direttive importanti. Direi di partire subito da queste e poi di esaminare magari più in dettaglio il discorso e sentire che cosa ne pensate, che cosa vi ha colpito maggiormente di esso. Quindi già a partire dalle prime direttive si nota un sostanziale cambiamento rispetto all'amministrazione Bush. Sì, lui dice nel discorso, letteralmente, scusate la traduzione, faccio del mio meglio, che bisogna spendere con attenzione, che bisogna riformare cattive abitudini per il nostro business, che bisogna fare le cose in trasparenza. E effettivamente il primo giorno del suo statement in office, quello che ha fatto, la prima cosa che ha fatto è stato un congelamento di tutti i salari per il White House staff, che sono al di sopra di 100.000 dollari. Inoltre ha anche cambiato completamente le regole dei lobbyist, creando quello che viene chiamato in americano un cooling period molto più lungo, delle regole molto più, come si dice, strict, molto più dure, sì, in modo da creare più trasparenza e cercare di far capire proprio alle persone che l'idea del nuovo governo è di creare trasparenza. Lo vediamo questo anche, scusate se faccio una digressione adesso, ma se andiamo a vedere il website che è stato inaugurato 2 giorni fa, anche dal punto di vista tecnico della Casa Bianca, sì, anche dal punto di vista tecnico c'è stata un'enorme apertura. Penso che sotto Bush i documenti ai quali si avevano accesso c'erano moltissimi, diciamo, veto, moltissimi documenti che i motori di ricerca non potevano arrivare. E invece adesso vediamo che questo è diminuito drammaticamente. Vi parlo di numeri da 2700 documenti che non si potevano raggiungere prima a una discesa a 2. Ma non dimentichiamo altre 2 cose che ha fatto già il primo giorno di lavoro. Uno era di bloccare tutte le iniziative cominciate da Bush che sono ancora in corso, tutto bloccato, vogliono sorvegliare, studiare e dopo decidere se continuano o no. E ha deciso per executive offer di chiudere il prigione della base di Guantanamo, certo, che è naturalmente una delle cose che il resto del mondo aspettava, e lui il primo giorno diceva lo fermiamo in un anno. Un atto estremamente simbolico, quindi sicuramente implementare questa direttiva richiederà parecchio tempo e richiederà anche, ma su questo tema direi di ritornare più tardi, richiederà la collaborazione degli alleati, sì, europei, perché ovviamente i sospetti terroristi, appunto, che sono imprigionati a Guantanamo dovranno essere messi in altre località e ospitati da altri paesi. Ma sulla collaborazione con gli alleati europei, come dicevo appunto prima, ritorneremo dopo. A questo punto direi di ritornare, come dicevamo in apertura, al discorso di insediamento. Vorrei innanzitutto chiedervi che cosa vi ha colpito maggiormente di questo discorso. A me hanno colpito soprattutto le parole. Non è che mi è rimasto una frase solamente in mente, che questa era la frase ultra simbolica, ultra memorabile, ma ha detto un sacco di cose che erano bellissime dal punto di vista scelte di parole. Per me, visto che abito all'estero già 20 anni, ha detto che il mondo è cambiato e anche gli americani adesso devono cambiare. E questo è una cosa che forse la gente non aspettava di lui, anche è una cosa un po' provocatoria, perché hanno votato lui per fare un cambiamento, il famoso change, ma lui dice che anche loro devono cambiare. Questo è già una cosa interessante. Per me, a incominciare dal discorso, direi che una delle cose che mi ha strabiliato di più forse è il fatto che il suo speechwriter, chi scrive discorsi per lui, sia un ragazzo che ha 27 anni, un certo Jonathan Favreau, per gli americani Favs, che lui conobbe ai tempi della campagna di Kerry, quando lui fece il suo primo grande debutto per la Convenzione Democratica nel 2004, quando il mondo incominciò, anche gli Stati Uniti al di fuori della politica, incominciarono a sentire parlare di questo Barack Obama. Tornando un attimo al momento del suo discorso di inaugurazione, ho trovato interessante comunque che non abbia detto tutto il suo nome, ha omesso la parte di Hussein. Sì. È vero. Sì. L'avevo notato anch'io. E oltretutto ha dovuto, apparentemente da quello che abbiamo letto probabilmente tutti oggi, ha dovuto giurare una seconda volta perché c'è stato un piccolo disguido di parole, quindi giusto per essere ma non, sicuri. Non è stato lo sbaglio suo. No, sì, assolutamente. È stato lo sbaglio del capo della Corte Suprema contro di cui Obama aveva votato all'epoca. Molto interessante. Allora, io ho già una teoria di conspiracy, come si dice conspiracy? Sì, di cospirazione. Cospirazione. Payback time. Siamo ancora in linea, sembra. Penso di sì. Un'altra cosa interessante è anche il fatto che il discorso non è andato in onda, è stato censurato in alcune parti, per esempio in Cina, quando lui ha parlato delle lotte che in passato hanno dovuto sostenere varie popolazioni nel mondo, incluso gli americani, contro il fascismo e il comunismo, misteriosamente quelle parole sono scomparse. Quindi anche questo è interessante, da vedere come il mondo ha reagito a questo discorso, capendo che l'audience sarebbe stata straordinaria. Mi dicono dalla regia che Alessandra dovrebbe essere in collegamento. Ci senti? Ci sono io, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Con i nostri ospiti stiamo commentando il discorso di insediamento di Obama. Stavo chiedendo appunto a Brandon e a Gaia che cosa li ha colpiti maggiormente del discorso. Per quanto mi riguarda, in termini generali, una cosa che sicuramente è saltata agli occhi è il fatto che rispetto ai discorsi di Bush è venuta a mancare, per fortuna, non c'è più questa distinzione tra noi e loro, bianco e nero, l'America contro gli altri, insomma, i toni, non ci sono più questi toni di opposizione, non c'è più questa visione. Infatti c'era il contrario, il buono e il nemico, diciamo, perché lui aveva detto specificamente alle persone nell'estero e nel mondo musulmano che bisogna che gli Stati Uniti vogliono dare la mano se gli altri l'accettano, e se l'America dà la mano se gli altri smettono con il pugno. Sì, se lasciano il pugno, se lasciano per il pugno. Dare la mano, sì. E un altro aspetto interessante, penso, come se ne parlava anche con Gaia, il fatto che si sia riferito agli Stati Uniti come una nazione di diverse religioni. Di diverse religioni, e oltre a fare un elenco di tutte le varie religioni, ha nominato una cosa che io non mi ricordo di aver mai sentito da un presidente americano. I non-believers, i non credenti. Quindi, ancora una volta, sempre un atteggiamento di inclusione verso tutti. Perché se pensiamo, per esempio, a una delle cose controverse di questo discorso inaugurale, era il fatto che avesse scelto il reverendo Rick Warren, che ha visioni molto, diciamo, un po' bigotte, potremmo dire, per i matrimoni tra gay. E infatti questa sua scelta non era stata apprezzata. Quindi vediamo nel discorso di nuovo un suo atteggiamento che vuole sempre includere tutti. Sì. E un'altra cosa che non era certamente il punto più forte del discorso, ma lui ha detto che vogliamo rimettere la scienza al centro delle nostre decisioni e utilizzare la tecnologia per a migliorare la qualità del servizio di sanità pubblica negli Stati Uniti. Ma questo fatto di aver parlato della scienza è anche un attacco indiretto contro Bush, che aveva fatto tante decisioni sulla base di religioni, diciamo. Non conosco le parole in italiano stupidamente, i stem cells, le cellule souche. Io penso che rimangano in italiano anche in momento. Staminali, le cellule staminali. Bush aveva bloccato la ricerca su questi staminali, sì. Già Obama ha fatto sapere che lui cambierà questa politica, ma anche la famosa vicepresidente candidata di McCain, Sarah Palin, aveva sostenuto l'insegnamento di creazionismo nelle scuole pubbliche, malgrado il fatto che c'è una separazione assoluta fra Stato e Chiesa negli Stati Uniti, e lui dicendo che la scienza sarà di nuovo un po' più importante nelle nostre vite, per me è una cosa importantissima. Assolutamente, anche tutta l'importanza che lui dà all'aspetto del climate change, il cambiamento del climatico che stiamo attraversando. Apparentemente sembra che voglia investire qualcosa come 150 miliardi di dollari in energia rinnovabile. Avrà delle difficoltà a farlo, penso, in Senato, se non ha almeno 60 voti, riesca a filibuster, 67 per far passare le leggi. Però sicuramente la volontà è lì, e penso che anche attraverso tutta la campagna sia stato uno dei leitmotiv, uno dei suoi punti prioritari che abbiamo sempre visto, ovviamente dopo il problema economico che il paese attraversa. Abbiamo parlato dei primi, quindi, ordini esecutivi che sono stati dati dal nuovo presidente, quindi tra l'altro ieri e oggi, ma che cosa secondo voi ci possiamo attendere da Barack Obama nei primi 100 giorni di governo? Allora, ci sono diverse cose che ancora non ha lanciato nei suoi primi 2 giorni. Per esempio c'è la riforma del sistema di sanità pubblica. Ci sono ancora dei milioni di americani che non hanno assicurazione di sanità. Si dice sanità? Sì. Non hanno assicurazione sanitaria. Allora se prendono malanno o se si rompono le gambe, possono andare in ospedale e chiedere aiuto, ma non hanno il diritto di aiuto. E questo durante il campagna ha sempre detto che bisogna cambiare questo, e fa schifo, fa vergogna che gli Stati Uniti, il paese più ricco del mondo, non possa provvedere per diciamo i beni primari, insomma, sì. La sanità è assolutamente necessaria, forse quello è il vantaggio, sì, di essere un cittadino italiano. Sì, allora io aspetto già qualche cosa, qualche movimento su questo soggetto nei primi 100 giorni, ma l'altra cosa più importante è l'economia. Lui deve cercare di fare delle soluzioni abbastanza drammatiche per rallentare il calo nell'economia americana e cercare di rilanciarlo con per esempio investimenti nelle energie rinnovabili, nelle scuole, nelle strade, nelle ponti, un po' dappertutto. Sì, le penso che leggiamo tutti recentemente del fatto che questo viene visto un po' come il secondo periodo peggiore dopo gli anni 30, dopo la crisi del 29, e il fatto che questa è una seconda New Deal e dovrà essere forse anche più potente, perché penso che quello che lui avrà intenzione di chiedere al Congresso come autorizzazione di investimento sia qualcosa come 800 miliardi di dollari. È enorme. Quindi qualcosa veramente di difficile da immaginare, e quello che mi piace è la sua attenzione al fatto che comunque ci deve essere quello che continua a ripetere: accountability, responsibility. Qualcuno deve essere tenuto responsabile. Questi soldi non possono semplicemente andare in direzioni senza che sappiamo dove. Ma se pensi che abbiamo continuiamo a spendere dei soldi spaventosi in Iraq tutti gli anni, meglio spenderli sulle strade e le scuole che bombe, certo, in Iraq. Alessandra, ci sei? Sì, io ci sono. Ottimo. Anzitutto salutare e ringraziare ancora i nostri ospiti per essere tornati a Giro di Boa. E volevo chiedere, si stava parlando dei primi 100 giorni dell'azione Obama, mi sentite bene? Sì. Pronto? Sì. Sì, siamo qui. Ah, ok. No, mi chiedevo, giustamente voi stavate parlando della crisi finanziaria che stiamo attraversando. Obama è stato atteso con molto... è stato molto atteso sia in Europa che negli Stati Uniti, c'era tantissimo entusiasmo verso di lui, non sono forse troppo le aspettative? Tutto sommato Obama è comunque un uomo, per cui sì, certo, potrà fare grossi investimenti, ma i cambiamenti immediati non si potranno vedere subito, ci vorrà molto tempo. Allora io mi chiedo come la gente reagirà dopo tutto questo entusiasmo, dopo tutte queste aspettative. Comunque i cambiamenti lo sappiamo che hanno bisogno di tempo, e gli investimenti anche per dare un cambiamento. Lui parla di questo proprio nel suo discorso, e oltretutto ho letto vari editoriali che hanno fatto il commento sul fatto che il discorso di Obama è stato un buon discorso, ma non è stato il discorso che, diciamo, lancia le folle in lacrime. E penso che sono degli esperti, sanno cosa fanno, e questo è stato voluto. Non per far scemare le aspettative, ma per far capire a tutti... Scusami, è stato un discorso realistico? Credo realistico, un discorso che dà speranza, ma che dice... We're in it for the long haul, proprio nel senso che questo non è un tunnel dal quale usciremo domani, è qualcosa sul quale dovremo lavorare tutti, ed è solo il lavoro duro di noi tutti che potrà farci uscire da questo, l'onestà, l'aiutarsi a vicenda. Ho trovato infatti alcuni anche, come si dice, analogie che potremmo fare con un discorso di Churchill che mi piace molto, quando nel 40 parlava del "Let them say that this will be our finest hour", il momento più difficile della battaglia, ma noi continueremo e continueremo a combattere, e che gli anni posteri dopo dicano che questo è stato il nostro momento dove abbiamo brillato di più, proprio perché la strada era lunga ed era buia. E quindi non, per rispondere alla tua domanda, trovo che questo discorso sia stato forgiato con grande attenzione per far anche per dare l'impressione anche agli cittadini che sì, io sono il vostro nuovo leader, ma siamo noi tutti gli Stati Uniti e quindi dobbiamo lavorare insieme. Sì. E io aggiungerei semplicemente che già il fatto che sta dicendo che cambierà corso dovrebbe rendere molto felice l'Europa, perché il problema dell'amministrazione Bush per tutti questi lunghi anni era che sapevano che non valeva la pena chiedere che lui sottoscriva per esempio il trattato di Kyoto contro il cambiamento climatico, non valeva la pena perché sapevano benissimo che lui non fa un tubo per eccetera, altre cose, che cambiare la direzione in Iraq, inutile, ma già si sa benissimo con Obama che si può parlare di tutto, e lui già il primo giorno dicendo chiaramente che chiuderò Guantanamo, questo è una cosa che gli stati europei hanno già chiesto già da lungo tempo e hanno anche offerto il loro aiuto per ospitare certi di questi prigionieri per dargli un processo. Dargli un processo decente e non farli sparire in Guantanamo. Di questo già si parlava, Brandon, l'ultima volta che sei venuto, quando parlavamo di Obama contro McCain, e si diceva che grandissime erano le aspettative con Obama che potesse iniettare una nuova dinamica nelle relazioni transatlantiche. Ma secondo te che tipo di Europa, che tipo di partner Obama troverà? Come, insomma, siamo qui a Bruxelles, conosciamo tutti l'Unione Europea, come funziona, ma diciamo, non è sempre unita, ci sono spesso divisioni, come gestire i rapporti con la Russia sono per esempio un forte esempio di questo. Quindi ecco, secondo te che tipo di Unione Europea Obama troverà, che tipo di partner troverà? Ma diciamo per almeno un anno Obama troverà ancora diciamo il solito Europa un po' confuso, contraddittorio, con la presidenza che si cambia ogni 6 mesi, ma speriamo bene che la Costituzione europea, il draft Constitution, viene approvato dagli irlandesi in un secondo referendum, e che questo cambia anche il modo di agire europeo, che l'Europa può agire come un blocco nella politica estera e non contraddirsi in continuazione. Questo già sarebbe una buona cosa dal punto di vista degli Stati Uniti, ma è molto interessante che Obama non parla molto dell'Europa. Lui ha vissuto in Indonesia, ha vissuto in Hawaii, che è molto più vicino all'Asia che all'Europa, e infatti non parla troppo dell'Europa. C'è gente che ha studiato i suoi discorsi e ha cercato invano la parola Europa. Secondo te quindi è possibile che l'Europa non sia una alta priorità nella lista del Presidente Obama? Io non credo che l'Europa è alla cima della sua lista di priorità nel mondo. Lui nel suo discorso di inaugurazione ha parlato specificamente dell'Africa, ha parlato specificamente del mondo arabo, ma non ha parlato dell'Europa, per cui sappio, e non ha parlato neanche specificamente dall'Asia. No, assolutamente. Penso comunque che l'altro lato della medaglia per l'Europa, ci siamo talmente tanto lamentati di Bush e delle sue politiche di guerra, ma vedremo che per l'Europa adesso sarà anche molto più difficile dire di no, perché sarebbe un fare marcia indietro dopo aver fatto tante pressioni. Come mi dicevi prima, Brandon, il Portogallo per esempio si è offerto di prendere per far fare il processo per alcuni dei prigionieri di Guantanamo, ma non sono ancora tutti i paesi d'Europa pronti a fare una cosa del genere, e quindi trovo che questo costringerà anche l'Europa a dover far seguire alle parole finalmente i fatti, perché sono con un negoziatore diverso. L'Afghanistan rappresenta un ulteriore esempio, io credo. Obama ha sempre parlato di un ritiro dall'Iraq entro ovviamente tempi possibili, mi sembra che abbia detto un ritiro entro 16 mesi, per rifocalizzare gli sforzi sulla guerra in Afghanistan. Quindi è molto probabile che nel suo prossimo viaggio in Europa, che sarà probabilmente in coincidenza con il prossimo summit della NATO, chiederà agli alleati maggiori sforzi in Afghanistan, quindi un maggiore contributo in termini di truppe. Quindi che cosa secondo te risponderanno paesi come la Germania, come la Francia? Credo che saranno più disposti a inviare truppe in Afghanistan se c'è una grande forza americana, se invece sanno che la forza americana è piccola e che ci rimangono più problemi per gli europei. Allora, il fatto che ha già annunciato che vuole mandare 30.000 soldati americani in Afghanistan dovrebbe essere una buona cosa per l'Europa, perché sanno che non sarebbero non solo. Però sicura soli. Da quel punto, sì. Tornando un attimo alla Russia, e questa è solo una speculazione mia, quindi deve essere presa con un grain of salt, c'è un punto nel discorso dove Obama parla del fatto che dice: noi non ci scuseremo per il nostro modo di vita e vi diciamo anche che il nostro spirito cresce, diventa più forte, non verrà distrutto o rotto, e voi non durerete più di noi. E mi sono sempre chiesta se questa era una risposta alla linea di Khrushchev del 56 che diceva: vi seppelliremo. Non lo so. Io pensavo che questo riferiva al mondo musulmano, con i terroristi praticamente, che vogliono far fuori gli Stati Uniti piuttosto che la Russia. Probabilmente, ma è una linea che mi ha colpito. Bene, direi ora di fare una pausa musicale e poi ritorneremo in studio con i nostri ospiti e continueremo a commentare l'insediamento del presidente Barack Obama. Siamo nuovamente in onda, siete nuovamente all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera con i nostri ospiti, Brandon Michener, Gaia Pellegrini Bettoli, stiamo commentando l'insediamento del presidente Obama. Abbiamo parlato del discorso di insediamento, delle emozioni provate, abbiamo già trattato il tema delle relazioni transatlantiche, più in generale delle relazioni dell'America con il mondo esterno. Dunque siamo nuovamente in onda e vorrei chiedere ai nostri ospiti che cosa pensano della squadra di governo messa insieme da Obama, quindi non soltanto ovviamente del primo nome che ci viene in mente, Hillary Clinton, segretario di Stato, la vecchia rivale per la nomination democratica, ma vorrei anche chiedere ai nostri ospiti quali sono le altre figure chiave della nuova amministrazione. Comincio io? Sì. La cosa più interessante dal punto di vista generale è che lui ha scelto delle persone che rappresentano la creme della creme della società americana, dell'intelligenza americana, anche per fare parte del suo cabinet. Già si vede, se uno legge le biografie di queste persone, si vede subito che vengono quasi tutti hanno studiato a Harvard o Yale o Princeton, sono veramente delle persone, ma anche lui è stato uno dei studenti di giurisprudenza più pregiati degli Stati Uniti. Ha cercato uno che ha guadagnato il premio Nobel per fare parte per essere responsabile della politica dell'energia, e questo un certo Chu, che ha già annunciato che vuole fare molto per fare investimenti nelle energie rinnovabili, ha detto che il suo peggio nightmare, come si dice nightmare? Incubo. Il suo peggio incubo è il carbone, e la continuazione di utilizzare carbone. Vuole cambiare questo corso. Io vorrei aggiungere una cosa semplicemente per quelli che ci seguono, che non sono tanto familiari con il sistema americano, su come viene scelto il gabinetto. È lui che ovviamente suggerisce i nomi che vorrebbe avere nel suo team, però è il Senato che tramite questi hearings deve confermare la nominazione. Quindi il fatto di essere nominato non è una garanzia al 100% di poi far parte di questo team. Vediamo un certo Richardson, che era anche lui stato in gara all'inizio all'inizio dalla parte dei democratici insieme a Hillary Clinton, che poi si era ritirato e aveva dato il suo appoggio a Obama, che alla fine si è ritirato perché non aveva alla fine l'appoggio del Senato. Vediamo un'altra persona che sembra verrà confermata, ma che sta avendo gravi problemi, è Geithner per Secretary of Treasury. Sembra che Geithner abbia dimenticato di pagare circa $37,000 di tasse mentre lavorava al Fondo Monetario Internazionale, e molto convenientemente, nel momento in cui ha saputo che sarebbe stato un nominee per il gabinetto, ha deciso che era forse il momento buono di pagare. E all'interno degli Stati Uniti, giusto, non so se quanto siete familiar, ma penso che dopo l'FBI e CIA, uno degli organi più temuti da tutti noi cittadini è l'IRS, e Geithner, se avrà questa nominazione, sarà capo dell'IRS. Quindi lui è capo dell'IRS, che è quello responsabile per le tasse, per sì. Le tasse. Quindi il capo responsabile delle tasse che non le paga lui stesso non mi sembra il migliore degli esempi. Sì. Ma ci sono altri esempi che sono migliori, diciamo. Ho già parlato un pochino di Mr. Chu, ma c'è anche Tom Daschle, che è ex senatore, che è esperto nella sanità pubblica, che sarà responsabile infatti della sanità pubblica e della riforma del sistema americano di questo. E c'è Robert Gates, che è un repubblicano, che è rimasto dalla squadra Bush, responsabile del Dipartimento di Difesa, che è rimasto non perché è repubblicano, ma perché è bravo, perché è pragmatico, che anche lui non vuole restare in Iraq per sempre. E c'è sempre Hillary Clinton. Torniamo al come stavo dicendo nella mia domanda, al nome ovviamente che viene in mente a tutti. Vi ha sorpreso questa scelta? No, non me l'ha sorpreso, perché tutti sapevano che voleva fare una gesta, voleva fare qualche cosa per Hillary. C'era anche la speculazione all'epoca che poteva offrirla alla vicepresidenza, ma non l'ha fatto, e lei probabilmente non avrebbe accettato la vicepresidenza. Ma il fatto che l'ha scelto per Secretary of State è già una cosa interessante, e secondo me lei farà un buon lavoro. Non è che non sa niente della politica estera, è stato implicato già nel Senato, ha viaggiato tanto con il suo marito Bill Clinton, naturalmente, ha parlato certamente anche tanto dalla politica estera in questo contesto. Ma il fatto è che la grande domanda è se questo va a creare una rivalità nell'amministrazione di Obama, che possono avere anche delle differenze, che lei ha una certa ego, la domanda è se lei farà quello che vuole o quello che dice lui. Io non sono assolutamente una fan di Hillary, quindi scusatemi, sarò un po' dura verso di lei. Penso che certamente sia più ferrata in politica estera rispetto a una Palin, che pensa di sapere perché dalle sue coste dell'Alaska vede la Russia. Però non mi piace, penso che ci potrebbe essere stata una scelta diversa. Mi chiedo anche se al momento della convention democratica, o quando ci si avvicinava, se non ci sia stata qualche tipo di deal che è stata fatta tra i due, perché chiaramente Obama aveva l'appoggio più importante, e che non ci sia stata qualche promessa, perché penso che sia una donna che è veramente una iena, che lotta con i denti e con le unghie, e questo suo appoggiare Obama senza graffiare abbastanza mi insospettisce, e quando ho visto due mesi dopo che lei era proposta per Secretary of State, nella mia mente mi sono fatta molte domande. Ai nostri ospiti prima si citavano alcuni repubblicani che fanno parte del team di Obama. Come ben sappiamo, Obama ha voluto un team bipartisan, però si è anche parlato di rivalità. Saranno in grado di lavorare insieme? Non sarà forse controproducente? Non si arriverà forse addirittura al bloccaggio di alcune iniziative? Gaia per esempio faceva l'esempio di Hillary, che tutto sommato resta comunque una... Gaia l'ha definita una iena, credo che abbia perfettamente ragione, forse ho trovato un buon compromesso per definirla. Ecco, volevo sapere, in questo team, che comunque ci sono grosse personalità, tutto sommato riusciranno a lavorare, a cooperare, a mandare avanti insomma le loro iniziative? Forse inizio io, poi continui Brandon. Io penso che iena sia quasi un aggettivo gentile per Hillary, ma siamo in comunicazione radio. Ma quello che vorrei aggiungere, ho conosciuto una persona che conosce Obama personalmente durante una conferenza qui a Bruxelles, molto interessante. Perché mi ha detto una forse dei pochi problemi che avrà Barack Obama è il fatto che sì, è una persona dotatissima, intelligente, straordinario, però come tutte queste persone arrivate a questi vertici ha un enorme ego. Quindi penso che Hillary avrà un rivale che saprà tenergli testa molto molto bene, e se l'ha scelta lui è sicuro di poter mantenere lui il comando, di questo sono sicuro. Quello che, giusto per muovere una critica, perché si dice sempre solo bene di lui, mi chiedo invece se sarà in grado di delegare abbastanza, se non vorrà veramente rimanere in controllo di tutto. Mi auguro di no, penso che sia straordinariamente intelligente e quindi non lo farà. È un po' difficile dire a questo momento se riuscirà a gestire questo cabinet o no, ma il paragone che vorrei fare è col cabinet di John F. Kennedy all'epoca, che hanno chiamato il Dream Team, la squadra di sogno, perché erano i più brillanti, i più belli, c'era veramente la squadra perfetta per guidare gli Stati Uniti. E se io vedo questo cabinet di Obama e se lo paragono con quello di George Bush, diciamo non possono fare peggio. Non possono fare peggio, e se fanno qualche sbaglio, se c'è qualche litta fra di loro, diciamo che questo è minimo paragonato con quello che lo precedeva. Vorrei cambiare un attimo discorso, tornare ad un tema che avevo accennato in apertura di trasmissione, cioè la nuova immagine degli Stati Uniti. Questa nuova immagine è quindi data dalla nuova First Family, quindi una coppia di colore, giovane, dinamica, Barack Obama, come si diceva, con un background internazionale, ci sono due bambini alla Casa Bianca, penso che non accadesse da tantissimo tempo, forse no. Non so, tu Brandon ti ricordi, anche la suocera. Chissà quindi, quanto è contento di quello, mi chiedo. Secondo te, secondo voi, quanto conterà quindi questa nuova immagine degli che gli Stati Uniti potranno proiettare di se stessi nel mondo? Questo è naturalmente la cosa più simbolica di tutto, e quando ho commentato l'inaugurazione già martedì sera ho detto che questa è la cosa per gli americani che è la più commovente, sì. Che lui parlava un po' nello stile di Martin Luther King, che per me come americano è uno dei personaggi più famosi, più belli, più puliti dal punto di vista reputazione americani, e lui cercava anche di approfittare di questo, di utilizzare certi manierismi o anche certe parole che aveva utilizzato all'epoca Martin Luther King nel suo grande discorso sulla Mall di Washington, da I have a dream, cioè un sogno. Ha parlato anche un po' nel modo di John F. Kennedy e Abraham Lincoln, ma secondo me l'influenza più forte è quella di Martin Luther King sul suo discorso. E il fatto che ha preso per gli Stati Uniti 100 anni per finire la schiavitù, altro 100 anni per dare ai neri la libertà che aveva di cui avevano il diritto ma non avevano veramente la possibilità di averlo, ha durato altri 60 anni per avere Obama, ma questo per me fa parte di un'evoluzione nello sviluppo della politica americana e nella società americana, anche che possono accettare un presidente nero che viene votato con una grande maggiorità. Penso che in aggiunta a quello che ha detto Brandon sono d'accordissimo, ma penso che veramente Obama abbia le abbia le qualità carismatiche che abbiamo visto nei grandi presidenti degli Stati Uniti. Non possiamo ancora dire troppo presto, però almeno per quanto riguarda carisma e comunicazione, penso che butti Clinton al tappeto. Chi si ricorda di Clinton? E infatti immagino che... No, Clinton era buono. Sì, ha parlato molto bene. Però credo che a livello proprio non c'è mai stato questo coinvolgimento a livello mondiale, e penso che vada oltre il fatto di un primo presidente di colore, è proprio il messaggio e il suo modo sempre inclusivo, di sempre di tendere la mano. Almeno io questa è una cosa che ho notato attraverso la sua campagna elettorale, che a poco ha preso sempre più forza ed è cresciuta. Stavo parlando prima della First Family, parliamo un attimo della First Lady, Michelle Obama. Secondo voi che tipo di First Lady sarà? Forse una via di mezzo tra Laura Bush e Hillary Clinton? Ma diciamo, lei rimarrà normalmente nello sfondo, secondo me, di punto di vista politica. Già nella campagna non ha parlato troppo, e quando ha parlato ha fatto già qualche sbaglio. Allora, la campagna ha cercato di tenerlo come si dice? Dietro, sì, nell'ombra. Dietro le quinte. Sì, dietro le quinte, un pochino per evitare dei guai, che lei dice è una cosa troppo forte. La cosa di cui mi ricordo bene era, lei ha detto qualche cosa che era anche molto critico dei bianchi, praticamente, nel punto di vista razziale. Mm-hmm. Non mi ricordo esattamente che cosa ha detto, ma mi ricordavo che faceva scandalo. Sì, io ricordo che ho suscitato scalpore un'altra sua dichiarazione, un altro suo commento, non ricordo riferito a cosa, ma aveva dichiarato un qualcosa del tipo che era la prima volta che sentiva orgogliosa di essere americana, però ripeto, non ricordo a che cosa si riferisse, ricordo lo scalpore che aveva suscitato in seguito. Penso anche che dovremmo ricordarci però una cosa, per quanto sia un avvocato brillante questa donna, sicuramente non ha vissuto nella politica, e quindi le frasi a volte prese fuori contesto, per quanto uno cerca sempre di misurarsi, penso anche che insomma denoti il fatto che non sia, che non venga da quel milieu, che non sia una politica come Clinton. È difficile che la becchi a dire una cosa fuori posto, a meno che non stia proprio mentendo. Sì, ma io credo che Obama, diciamo il presidente Obama, chiederà sempre a sua moglie il suo avviso sulle cose, visto che lei è stato suo capo. Quando si sono conosciuti, lei era il capo, non lui. Ci deve essere un rispetto enorme fra di loro, e anche un grande amore. Credo che lui cercherà la sua avviso, ma che non andrà in pubblico a tenere discorsi e fare la Hillary, diciamo, come la Hillary ha fatto all'epoca di Bill Clinton. Come dicevo prima, rappresentano sicuramente una bella immagine. Sicuramente. C'è stato un show che negli Stati Uniti è come il Tonight Show, si chiama il Jay Leno Show, e avevano intervistato Obama varie volte. In uno dei discorsi gli dicevano, ma cosa ne pensi di Clinton? E lui mi ha detto, ma tra Clinton e mia moglie, I put my money on my wife, nel senso che se sono insieme in una stanza, è lei che gliele dà. E poi c'era stato un commento sul fatto che forse non era una buona idea lasciare la moglie con Clinton soli, ma comunque insomma il fatto che è una persona molto tosta e molto pronta, e che sicuramente per questo è insomma la sua compagna. Io avevo una domanda sul razzismo. Avete parlato del fatto che è un nuovo presidente, un presidente giovane, che giustamente avete detto che è un presidente di colore, e questo rappresenta un grandissimo cambiamento. Siete sicuri che l'America, che tutti gli americani siano pronti ad accettarlo? Esistono ancora gruppi come White Power, il Ku Klux Klan? È forse, probabilmente, mi auguro, una piccola minoranza, però esistono, sono ancora tuttora presenti. Questo non potrà suscitare dei malumori, delle cose di questo tipo? Ma secondo me la gente deve accettarlo, diciamo, ci saranno certamente quelli che lo vogliono fare fuori, e speriamo che la polizia fa il suo dovere e evita questo. Ci sono già state delle minacce contro di lui durante la campagna, ma credo che gli Stati Uniti sono pronti per lui, e l'esempio che darei è che durante la campagna il primo stato che ha votato nelle elezioni primarie era l'Iowa, e l'Iowa è uno stato quasi completamente bianco, e hanno votato con un'enorme maggioranza per Obama contro Hillary Clinton. Allora, per me questa era la dimostrazione che gli Stati Uniti sono pronti per un presidente nero, e che la razza non è importante come il contenuto, quello che dice e quello che fa. Quello che fa, saranno alla fine le azioni, alla fine penso che sarà certamente quello a determinare quello che l'America pensa di lui. Sicuramente direi che probabilmente una grossa fascia della popolazione non è estremamente entusiasta ancora, ma io sono molto ottimista e spero che riusciranno ad apprezzarlo e che si farà apprezzare, ne sono convinta. Siamo quasi in chiusura. Non sono entusiasta a causa del colore o per altri motivi? Per il fatto razziale, penso che per quanto nessuno lo voglia ammettere e dire, se va negli Stati del Sud, scusa. No, dicevo, dunque c'è ancora comunque un razzismo assolutamente. Un malcontento forse, ecco, diciamo così, più che razzismo magari. Penso che il razzismo ci sia in America ancora. Io mi ricordo, ero a un college a Washington DC nel 91 e ho assistito a una marcia del KKK in una città che ha l'80% nera. Certo, sono più di 10 anni fa, però... Ma anche lui ci ha parlato in un famoso discorso, credo che era a Chicago, durante la campagna, ha detto che anche la sua nonna, che naturalmente l'amava tanto, ma lei aveva paura delle volte dei neri nel loro quartiere e ha attraversato la strada per evitare i neri, e lui diceva che questo gli faceva tremare, ma lui capiva il punto di vista dei bianchi che avevano che hanno certi ancora paura dei neri e dei ghetto dove bisogna dire c'è tanta malavita. Direi di allargarlo anche a altri come gli agenti ispanici eccetera. Purtroppo siamo quasi in chiusura. Io avrei un'ultima domanda, ed è una domanda sugli 8 anni di amministrazione Bush. Sicuramente gli storici, saranno gli storici a giudicare, sarà la storia. Bush lascia a Barack Obama un'eredità pesante, ma c'è qualcosa che salvereste dell'amministrazione Bush? Ci devo riflettere tanto. Ma Bush rimase, penso, zitto quando gli chiesero, credo fosse nel 2004, cosa avrebbe fatto diversamente, quali erano stati i suoi errori, e penso che io rimarrò zitta anche, perché non ho veramente nulla che mi viene in mente da salvare. Devo dire che qui dagli studi di Giro di Boa è stato molto emozionante seguire prima la campagna elettorale, l'abbiamo fatto anche con Brandon, abbiamo parlato di Obama contro McCain, ed è stato molto, molto interessante ed emozionante anche questa sera con Brandon e con Gaia parlare dell'insediamento di Obama, delle emozioni suscitate e delle sfide che il nuovo presidente dovrà fronteggiare. Quindi siamo veramente in chiusura, quindi un grazie ancora ai nostri due ospiti per essere stati qui con noi, speriamo di riaverli presto ai nostri microfoni. Grazie a tutti e due. Volentieri. Alessandra, diamo l'appuntamento ai nostri radioascoltatori per giovedì prossimo. Sì, come sempre dalle 21 alle 22 su Radio Alma 101.9 con Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento. A risentirci la settimana prossima. In chiusura anche un saluto e un ringraziamento a Giulio che ci ha supportato in regia. Grazie, alla settimana prossima.